24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, della Bersani. Cioè, l'ha capita? Farò un master in bersanese. Eccoci cari italiani, buongiorno, siamo qua e sono le 6:33 minuti e siamo pronti per accompagnarvi fino alle 9 nei vostri posti di lavoro in questa Italia un po' così, un po' messa insieme con i cerotti che cerca di scoprire se c'è una via d'uscita per trovare un nuovo governo. Siamo con Miriam Lucchetti in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia e siamo con voi se volete mandarci i vostri messaggi 349-238-6666. Come sempre siamo anche pronti ad aprire il nostro bar, il nostro barlamento. Nicole. Forza, forza, gente, accorrete al Parlamento. Forza, abbiamo tutti, barman tutti generosi come Santa Claus. Li paghiamo noi e con quello che paghiamo voglio bere tanto da tornare al Parlamento. Dario Fo, ragazzi, ma Dario questo Fo che spiega il programma 5 Stelle è stupendo. Ma chi è? Vincino. Buongiorno, Vincino. Questo era Dario Fo, Dario Fo. Si chiama il programma 5 Stelle, delizioso. L'intro del programma 5 Stelle. Saluto anche Paolo Del Debbio, buongiorno. Allora, qua abbiamo un vignettista prezzolato, lo diciamo subito, perché poi abbiamo un conduttore televisivo prezzolato, eppure da Berlusconi, cioè una roba Del Debbio. No, Del Debbio dico. Ah, l'ha detto di me, sì, vabbè. No, di te, di tutti, insomma, di tutti. Di tutti, siamo tutti prezzolati. Tutti vabbè. Prezzolati, che poi vuol dire credo prendere uno stipendio. Meno male, me ne vogliono dare anche due. ma c'è la, come dire, l'indennità per l'attacco a grillo, magari si può mettere nel contratto, indennità per... Allora lo chiedo stamattina. Magari. Come me l'ha detto lei. Magari si può fare. Allora, questa Italia messa un po' così, un po' raffazzonata, un po' in difficoltà, però è in difficoltà in tutti i campi, voi pensate la politica, eccetera, ma io infatti voglio partire da un uomo straordinario, il procuratore capo di Vigevano, lo conoscete, ne avete mai sentito parlare? Si chiama Alfonso Lauro. Vincino, ne hai mai sentito parlare? Il maestro mi ricordavo di Vigevano, però il procuratore il no. Procuratore capo Del Debbio ne hai mai sentito parlare? No, di Lauro non so se ho parlato di quello delle scarpe a Napoli, sì. No, Alfonso Lauro ha fatto una conferenza stampa, parlava di prostituzione e praticamente spiegava che al vertice di questa organizzazione criminale c'erano dei rumeni e sotto c'erano degli italiani, per cui ha fatto una considerazione il tipo: oh, noi italiani manco riusciamo più ad eccellere nel crimine, siamo un disastro. Sentite, è incredibile, il procuratore capo di Vigevano. Che è con tristezza che ho sentito e sapevo che la componente italiana di questa associazione è quella dedita alle attività più umili, più di bassa manovalanza, il che significa che non eccelliamo più neanche nel crimine. Secondo la mia logica, ed è una considerazione triste, prendetela per quella Vincino, che è tristezza! La manovalanza di tre rumeni per la prostituzione, ma è una tristezza, come dire ministro della giustizia, sì, ecco, bravo. Sono Alfonso Lauro, sono il procuratore capo di Vigevano, siccome gli italiani non eccellono più nel crimine vorrei propormi a ministro della giustizia, potrebbe Del Debbio, questa, cioè, ma io dico il procuratore capo di Vigevano, una tristezza, era proprio lì mortificato, no? Non so neanche che dire. No, questi, è la prima volta che mi trovo in imbarazzo. Questi italiani. Non lo so. Cioè, che dire? No, la cosa veramente che ci sta sotto lì seria è che vuol dire che questi qui hanno preso piede in modo totale, perché quando i cittadini di un paese diventano manovalanza della malavita di un altro paese, vuol dire che si chiama colonizzazione, che è molto preoccupante. Sì. E infatti lui è con molta mestizia che comunicava questa cosa. Ma c'è l'Europa, dobbiamo farcene una ragione. C'è l'Europa, non è che potevano essere sempre ubriachi in giro a fare incidenti, prima o poi qualche cosa dobbiamo fare questi qua. Vabbè, no, adesso però attenzione, non è che adesso identifichiamo vicini rumeni con quegli ubriachi, se no qua ci vengono a dormire, no. A dormire sotto. Comunque, casa. Comunque è un momento meraviglioso. Sì, è un momento. Ho capito stamattina una cosa, che tutti possiamo essere deputati, che questa cosa qua dei Clini è stupenda, cioè che è finita la balla della professionalità dei politici, proprio è finita tutta quella balla. Ma è bella questa cosa, no? È stupenda, veramente stupendo, ma io ci ho sempre creduto, io sono anarchico da 45 anni, insomma, praticamente da quando sono nato, ed è la realizzazione di tutti i miei sogni questa cosa qua. Cioè l'idea che l'uomo qualunque possa diventare, non l'uomo qualunque, ma che non l'ho detto. Il professionista della politica è un imbroglione, questo è il punto, non esiste la professione della politica. Non è una bella cosa questa, basta queste scuole di partito, insomma, possono arrivare anche casalinghe, impiegati, avvocati già ce ne sono per la verità, ma insomma persone che non hanno studiato e non hanno fatto carriera politica. Che vuol dire la professionalità della politica? Vuol dire che uno arriva in Parlamento, no? E impara quali sono le leggi del Parlamento, del Senato, eccetera, eccetera. E questo, vabbè, lo può imparare chiunque, basta che sia dotato, che ci abbia dei neuroni in testa, che funzionano. Costituzione in mano e via. E lo fa. Dopodiché ci sono altre materie sulle quali uno bisogna che sappia qualcosa, perché lo Stato sociale, l'industria, l'economia, eccetera. E anche questo le può studiare. Molti dei professionisti della politica sanno la prima parte e non sanno un tubo della seconda, quindi sanno come si fa a far funzionare, a far bloccare il Parlamento. Se gli chiede, ma che farebbe lei per il lavoro in Italia? Ah, zero. No, infatti anche questa idea di chiedere... Come direbbe quello di Miglievano, siamo alla manovalanza. Siamo alla manovalanza. No, infatti è come se fosse grave il fatto di non sapere, che ne so, come si fa un regolamento parlamentare, un'interrogazione. Ma chi se ne frega? Appunto, uno è lì sanno nessuno, i deputati votano perché c'è il capogruppo sotto che alza la mano in un modo o nell'altro. Infatti. E loro votano sì o no per come alza la mano il capogruppo. E infatti quando si sbaglia il capogruppo si distrae, è un disastro. Quando sbaglia il dito è un disastro, infatti cadono i governi per un dito sbagliato. Il capogruppo, il primo governo Prodi cadde per il capogruppo Parisi che sbagliò un conto. Era sovrappensiero così, pam, votate sì, invece era no e voto, 100 voti no, un po' è così. Allora questa mattina arrivando facevo questa considerazione che a volte arrivare anche alle 5 del mattino in radio in mezzo alla nebbia non si riesce mai. E allora mi è venuto in mente come il presidente Napolitano, no? Siamo nella nebbia, un po' l'Italia è così nella nebbia. Io farò quello che debbo fino all'ultimo giorno del mio mandato. Naturalmente sono commosso, diciamo, dalla metafora molto laudativa del faro, sia un faro sia una luce assolutamente normale, umana, quella che il capo dello Stato deve sprigionare. Certe volte faro o luce si fa fatica nella nebbia. Io cercherò di fare del mio meglio. Di credito, banchieri che si impiccano, le mani si puliscono, i piedi se la squagliano, le amanti non si lasciano, le mogli si intromettono, i mariti le perdonano, ma dopo le traficano. C'è nebbia in Valpadana. Soprattutto con Bersani davanti, povero napoletano. Sì. C'è Bersani che dice solo po'. Però scusate, ho letto questa possibilità che sul Libero credo che Bersani possa farsi da parte in favore di Rosi Bindi. Ma è uno scherzo, dire. Cioè il Libero che praticamente insomma, è un giornalaccio di satira diventato. Del debito. Si fa da parte perché c'è Renzi là dietro. Mamma mia, Vincino, è vero. Che Bersani potrebbe anche farsi da parte nel caso, ma in favore magari di Rosi Bindi. Ma chi l'ha scritto? Pietro? Ma non lo so, su Libero. Ma è Bel Pietro che è un ragazzaccio, non dovete stare dietro. No, perché voglio dire, Bersani proverà la sua chance, eccetera. Ma se si deve fare da parte per Rosi... Magari è vero, ci guardi che Milan può darci tutto. Ma per Rosi Bindi? Delle considerazioni, si ricorda come faceva una volta la cellula del partito? Allora, prima la questione internazionale, poi quella europea, poi sono arrivati che magari nella situazione, nella congiuntura attuale, la Bindi è meglio di Bersani. Sono fatti loro, cioè, esagerato, ma manco fossimo nel 49. Contenti loro, contenti tutti, non mi meraviglia di nulla da questo punto di vista, perché ho l'impressione che lì ci abbiano una questione di equilibri interni talmente forte che supera qualsiasi cosa esterna. E l'ha dimostrato Renzi Bersani. Con Renzi vincevano, no? Questo è noto. Hanno perso con Bersani, quindi voglio dire, può darsi tutto. Vincino qua per Renzi stravede, cioè per lui si sveglia. Però, ma l'hai visto come è stato troppo ganzo? È andato la mattina là e poi la sera era a Firenze con le tre grandi attrici italiane. No, è stupendo. È un uomo dinamico. Rappresenta dinamico. Gli italiani al 200 per 300, insomma. Cioè, perché politica e donne, politica e belle donne. Esattamente, cioè, ma un nuovo, giovane, no quello vecchio che come dire, politica vecchia e donne vecchie, insomma, là. Quella. No, lui è proprio il nuovo. È il nuovo. Allora, qui c'è la questione, adesso io all'inizio ironizzato, Paolo Del Debbio, qua anche a Canale 5, insomma, Barbara D'Urso è stata bella criticata, ha mandato in onda uno che dicono che era, insomma... Dicono che fosse... Chiamavano De Vita, De Vita, non era mica uno del Movimento 5 Stelle, era un simpatizzante, ha spacciato una cosa falsa, eccolo lì che Beppe Grillo subito vi ha paragonato ai lupi. Senta, pronti. Io ho avuto in trasmissione sia Fabia che la Salsi, no? Sì, anche che noi qua. Mega espulsi, uno poi si è ricandidato con Ingroia, cioè l'altra invece fa l'indipendente, mi sembra, a Bologna, no? Se non sbaglio, sì. Insomma, lì la storia è semplice, cioè lì c'è una esclusione, ma a proposito di Grillo, credo che oggi l'Espresso ci sia qualcosa di interessante. Sì, sì, eccolo lì. 24 mattino. Maddalena, con tutti i suoi io credo che c'è, perché non va all'università della terza età a imparare i congiuntivi? Io a mio figlio ho detto andatevene, qui lasciateci il sudiciume e andatevene via e non tornate mai più. E ci mettiamo Benigni, che fa il Presidente del Consiglio, Dario Fo fa il Presidente della Repubblica, poi ci basta. Crozza, che ne fa benissimo 3 o 4, Ballantini, insomma tutto un Parlamento di comici, così almeno ridiamo come pazzi, proviamo così. Cosa ci dobbiamo fare? Siamo rassegnati a una specie di bagaglino. Sì, parlo proprio con te lì, Alessandro Milan di Stoccazzo, ma fate proprio schifo, ma voi giornalisti siete solo lì a fare degli inciuci, voi altri, tutti contro Grillo siete capaci di dare, ma fate veramente pena. Alessandro Milan, tu e il tuo programma, specialmente dopo le elezioni, siete diventati veramente inascoltabili. Io fossi in te, mi cercherei un altro lavoro. Visto che prima o poi i tagli ai vostri giornali saranno veramente significativi. Non parliamo del cognome che porti, della squadra che tieni. Mila, non farmi ascoltare ancora D'Alema. La mia pensione, ai tempi della lira, mi consentiva una vita dignitosa. Con l'entrata in vigore dell'euro sono diventato un pensionato miserabile. C'è qualcuno che prova vergogna? O Grillo è ancora un passaggio intermedio per arrivare al mitra? Penso di essere stato chiaro. Riguardo ai finanziamenti ai partiti, Bersani, non c'è niente da discutere. Il popolo sovrano ha detto no. Come fa, come Berlusconi fa? E fa con me per. E te, Grillo, alla mandetta troppo alla longa, eh? Che Dio ci salvi. Eccolo qui, che Dio ci salvi. Siamo con Vincino e siamo con Paolo Del Debbio, conduttore di Quinta Colonna, il lunedì su Rete 4. So, qua Vincino, Milan, che... grande successo ha avuto stamattina. Ma qua infatti qua iniziamo a sudare freddo. Abbiamo fatto una cosa a favore di Grillo, questa cosa qua che è stupenda, che tutti possono fare deputati e non l'hanno capito. Ma qua devi, no, ma qua... l'ha suggerita Milan questa cosa. Si suda freddo qua, perché qua bisogna trovarsi un posto di lavoro. Adesso Del Debbio mi vuole. Arriveranno i tagli anche, insomma, le minacce, anche la squadra che tengo. Qua non si scherza. Ma qual è la squadra che tieni? Io tengo il Milan. E adesso Del Debbio mi vuole far parlare dell'Espresso. Ecco, poi dopo, no, dopo però è colpa di Del Debbio. No, per avvalorare la tesi di Grillo. C'è una persecuzione. Chiariamo, è colpa di Del Debbio. Andate tutti a trovare Del Debbio. Io faccio solo il... No, guarda che in che maniera impavida proprio porta avanti questa cosa. Allora, Beppe Grillo sull'Espresso. Ci sarebbero, questo è l'inchiesta dell'Espresso, l'autista, la cognata, il Costa Rica. 13 società in Costa Rica, paradiso fiscale. Del Debbio apprende tutto. È una nazione dell'ONU normale, non è che è un paradiso fiscale. Costa Rica, io sono stato in Costa Rica, è un paese fantastico, non c'è neanche l'esercito, è un paese andiamoci subito allora. È favoloso, è veramente un paradiso in terra. 13 società, protagonisti l'autista di Beppe Grillo e la cognata, cioè la sorella di sua moglie, della moglie Beppe Grillo. E i cognati sono la disperazione. Attenzione, c'è il i cognati sono la disperazione. Ma sapete chi ha dato le foto a panorama di Vendola col giudice? La cognata. La cognata. Il cognato, il fidanzato della sorella di Vendola. E sapete cosa ha detto il cognato di Di Pietro, l'onorevole Cimadoro? Non lo voto più, è finito, meglio Beppe Grillo. Eppure il cognato di Cimadoro ha detto così. Il cognato. Cimadoro era passato dai democristiani. Poi. Oggi sui giornali ha detto mio cognato Di Pietro è finito, meglio Beppe Grillo. Cioè, parenti serpenti, ma che succede? Ma è roba da male. Adesso questa cosa... Io dico l'Espresso, 13 società, che bisogna dire Del Debbio? Bisogna leggerselo intanto. Magari sono società. No, che bisogna dire? Bisogna leggerselo e vedere cosa c'è. Ma insomma, io diciamo non mi scandalizzo. Cioè, io se uno ha delle società, delle cose, eccetera, se sono, a me non me ne frega nulla. A me sai cosa che mi frega? Come appunto dice Cimadoro di suo cognato, che poi quelli che fanno il core business della propria roba, il fatto che sono puri, no? E dopo appena arriva una macchietta o arriva un qualcosetta, e dopo finiscono male, no? Perché se tu mi dici che tutta la tua questione è il fatto che te sei uno senza macchia e senza peccato, che appena vedi uno con la macchietta e col peccato gli dai addosso, insomma fai di tutta la tua politica solo e solo esclusivamente questa cosa qui, poi dopo insomma quando ti capita qualcosa ci vai sotto. Allora io vi devo far ascoltare una cosa che rischia di superare anche per il nostro contadino di Terni, no? Cioè, che c'è sempre, tra poco vi facciamo sentire la zappa, ma ieri Jean Martin dalla Romagna più profonda, non sappiamo bene da dove, anzi se ci ha aiutato a capire bene il dialetto, ci ha regalato questa piccola straordinaria poesiola per Radio 24. Senti Vincino, Par Milan, Radio 24, questa breve poesia, stranzeme culet, nama bota, e così sia. Eccolo Vincino, ci vuole la traduzione. No, non ci vuole la traduzione. Veloce, semplice, proprio preciso, è il riassunto dell'Italia di oggi, Del Debbio. Però più del Costa Rica c'è quella villa sulla spiaggia, guarda che dei tre italiani che hanno la villa sulla spiaggia, cioè, che gli rovinano la spiaggia, 100 metri, poi 200 metri, ora 2 chilometri, e lui invece no, lui c'ha la villa sulla spiaggia, ma è una cosa che gli invidiano tutti, che quando sono arrivati i giornalisti che gli ha detto non rovinatemi le dune di sabbia, che mi camminate sulle dune di sabbia. Però è bella questa poesia, Del Debbio. La poesia è bella, insomma,

penso che una nuova generazione debba governare questo paese e di conseguenza io non mi sono più ricandidata, anche se le devo dire che poi andando in giro ho fatto la campagna elettorale e ho poi trovato tante persone che si sono dette dispiaciute. Quindi sei un po' pentita, dice, forse no, c'è, no, forse no, avrei... non sono affatto pentita, voglio dire che ho avuto la conferma che negli anni in cui ho lavorato credo di aver fatto anche del bene. Buon lavoro. Ecco, però poi è importante discutere delle cose che uno ha fatto. Lei sa che però le polemiche poi non finiscono mai. Una volta finita la legislatura. La polemica era sul niente, nel senso, essendo una che ha rinunciato da giovane per la passione politica alla sua professione e ha fatto il politico di professione, e io ero dipendente in aspettativa del PD. Sulla base dell'articolo dello statuto dei lavoratori io sarei dovuta, non essendo più eletta, tornare al mio posto di lavoro, ma io capisco e quindi l'ho scelto, senza che in un momento come questo è bene che la mia attività nel partito, che ho un incarico che mi è stato dato al congresso, perché gli incarichi vengono definiti in un contesto democratico da un congresso all'altro. Io in questi anni, oltre a fare il parlamentare, ho fatto nel partito il lavoro difficile sui temi dell'immigrazione e delle politiche sociali, ottenendo dei risultati, perché per la prima volta in Parlamento ci saranno due nuovi italiani, Khalid Chaouki e Cécile Kyenge. Io continuerò a fare questo lavoro sui temi dell'immigrazione perché mi appassiona. Però non molto, nel partito. Lo farò a titolo gratuito. Ma certo, a titolo gratuito, ma nel senso, lavorerà nel partito, cioè prenderà comunque il suo posto e sarà a titolo gratuito, oppure? Perché sa, c'è anche la polemica su questo, ma assumete un precario al posto di Livia Turco. No, ma non ci sono precari nel PD e poi non faccio il mio lavoro gratuitamente. Non devo neanche fare il lavoro sul forum dell'immigrazione, con gli immigrati. Neppure Renzi arriverebbe a una rottamazione del genere, non credo sapere se io volontariamente, gratuitamente, posso fare quel lavoro difficile con gli immigrati e tra l'altro bisognerebbe chiederlo anche a loro che ne pensa, però questa abbiamo fatto un bel lavoro all'interno del partito. Questa polemica è stata portata anche all'interno, nel senso, ha visto di questo neosenatore russo che ha detto prima di Livia Turco sistemiamo la questione degli esodati, per esempio. Sì, ma mi pare che sia risolta. Lei continua a insistere su una cosa che appartiene al passato, io sono il responsabile del forum PD dell'immigrazione, perché questo l'ha deciso il precedente congresso. Abbiamo lavorato in questi anni sodo su un tema su cui, per esempio, lei certamente e i giornalisti come lei certamente non sareste teneri e neanche così disponibili a dare tanta visibilità, quindi un tema difficile. Abbiamo fatto un lavoro importante sul territorio. Io questo lavoro ho un mandato di concluderlo al prossimo congresso. Devo dire, siccome non sono più parlamentare, non devo più lavorare. Ma lei ha fatto diciamo un passo indietro sul fatto dello stipendio, insomma, questa polemica emersa. Non ho neanche fatto il passo in avanti, nel senso che non era assolutamente deciso nulla. Era dato forse per assodato, uno torna a lavorare a uno stipendio. Sta di fatto che c'è uno statuto dei diritti dei lavoratori che dice che quella persona, quando ha un incarico pubblico, va in aspettativa e quando l'aspettativa finisce torna al suo lavoro. Senta, su questo si è imbastita una polemica. Campato in aria, perché non era nulla deciso. No, capito, però io autonomamente decido che il mio lavoro è difficile, lo fa gratuitamente sui temi dell'immigrazione. Non lo mollo soltanto perché non ho più lo stipendio da parlamentare, ma lo porto avanti in modo volontario perché questo è ciò che mi è stato chiesto al precedente congresso. Perfetto. Perché questo me lo chiedono le tante persone con cui lavoro. Se io adesso, soltanto perché non sono più parlamentare, lasciassi quell'incarico nel partito, sarei veramente cinica. Questo l'ha chiarito. Senta, ci sono state anche delle polemiche, come sa, perché quando si attacca la casta, anche sul il cosiddetto TFR, il mandato di reinserimento nel mercato del lavoro da parte dell'ex parlamentare. Lei l'ha preso abbastanza corposo. Guardi, io andrò negli uffici e mi daranno i calcoli calcoli a fine aprile. Quindi sì, tutte le cifre che sono circolate fino adesso, tipo si parlava di 200 io non lo so quanto prenderò. Beh, sono sei legislature, quindi saranno abbastanza come TFR. Sì, ho pagato i contributi. Ma certo. Però sì, molti fanno notare che è un TFR che nel mercato del lavoro normale non c'è così alto, cioè un TFR circa... Comunque questa sia sulla pensione, sia sul vitalizio, sia su questo, noi Casta abbiamo introdotto una riforma e comunque le cifre che sono circolate sono cifre che... Per quanto mi riguarda non lo so, perché andrò ad aprile. Non lo so, cioè le 240.000 euro del TFR lo scoprirà ad aprile, però sono calcoli matematici in base alle legislature, quindi non è che... Lo scoprirò ad aprile. Anche il vitalizio, ma lei il Corriere della Sera ha detto che sarà sui 5.000 netti, credo, tra un paio d'anni. Non lo so, no, guardi, anche questo, siccome la pensione sarà tra due anni... Glielo so proteggere tra due anni, però scusi, sì, non le sembra un po' offensivo nei confronti dei cittadini che ad uno che è stato in politica e parlamentare per 20 anni, che ha fatto il ministro, anziché chiedergli che cosa hai fatto, fare questa discussione ma qui? Ma io l'ho invitata varie volte quando era ministro, onorevole Turco. Interessa ai cittadini, sì, sia avere delle persone che fanno bene il loro lavoro. Ma certo, ma guarda che onorevole Turco, una persona che ha fatto bene il suo lavoro. Ma io l'ho invitata a discutere delle tante ma cose che mi scusi, ho fatto. Onorevole Turco, io l'ho invitata in questi anni tante volte, quando era ministra della sanità, quando è stata ministro, quando era ministro e quando ha fatto quel lavoro ne parlavamo. Adesso si deve anche parlare delle cose magari un sì, po' sì, più scomode. Senza imbarazzo. Se lo faccio senza imbarazzo, perché io sarò in questi 2 anni che mi separano dalla pensione, lavoro gratuitamente nel partito e poi vedrò, insomma, se troverò, farò sicuramente del volontariato con le associazioni con cui ho lavorato in questi anni e poi continuerò a fare politica. Sarà possibile continuare a fare politica? Ma certo, ma nessuno quello glielo impedisce. Insomma, lei vede un po' troppo un attacco contro questi presunti privilegi della casta, no? No, guardi, i privilegi c'erano, li abbiamo cancellati. Poi sono d'accordo con la proposta del mio partito che si debbano ridurre gli emolumenti, però le faccio anche presente che non siamo tutti e non siamo stati tutti sullo stesso piano, perché c'è chi come me che ha fatto solo il parlamentare dedicandosi giorno e notte e lavorando anche nel partito e chi invece faceva il parlamentare e svolgeva altre attività. Per esempio, perché questa cosa non la si corregge? Così come... Lo deve correggere il Parlamento, però... Sì, certo, sono d'accordo, ma se, per esempio questa è una cosa... Io avevo presentato una riforma di legge su questo, avevo presentato un disegno di legge per stabilire l'incompatibilità tra il lavoro di parlamentare e altre attività, perché quando uno fa il parlamentare deve fare solo quello, i cittadini lo approverebbero in un secondo. Vogliono dei parlamentari che facciano bene ma lei, il loro lavoro. Lei non crede che tutto questo sia anche il motivo per cui molti hanno votato il Movimento 5 Stelle? Cioè che la politica non ha fatto queste cose? Sono una che viene da anziana, cioè la mia è una famiglia operaia, quindi figuriamoci, quando sono cresciuta con mio padre che mi sentivo nella mia famiglia cosa voleva dire non arrivare alla fine del mese, quindi sono dei temi che fanno parte della mia storia, guardi, veramente fanno parte della mia storia. E poi rivendico il fatto che ho fatto per tanti anni il parlamentare, ma io non ho mai visto né preso uno stipendio intero da parlamentare, perché quando venivo eletta nel PC, PDS, DS e poi anche nel PD si firma una delega per cui nel PC metà dello stipendio andava al partito. Quindi sono stata orgogliosa di questa scelta, perché quella mia metà di stipendio ha consentito al mio partito, al PC, PDS, DS e poi adesso il PD, di utilizzare quelle risorse per fare politica, perché una politica popolare è una politica che ha anche dei costi. Però che bisogna cambiare il finanziamento dei partiti. Ecco, appunto, volevo arrivare a questo. Perché lei non è per cambiarlo ma non per cancellarlo? No, vede, sono per cambiarlo ma non per cancellarlo, perché così come dice la nostra Costituzione, bisogna che ci sia un vero principio di eguaglianza e che tutti i cittadini possano partecipare alla vita politica e tutti i cittadini possano essere eletti. Però Beppe Grillo ha dimostrato che senza soldi, almeno di finanziamenti pubblici, è arrivato, adesso poi si vedrà. Vediamo come va a finire, comunque c'è una politica popolare che si fa sui media, vediamo come andiamo a finire, vediamo poi quali sono i redditi di Grillo, no? Mi pare che ci siano un po' di cose, vedremo come andrà a finire. Comunque io penso che ci debba essere una politica popolare che consenta, per esempio, a una come me, figlia di operai, che con le sue forze non sarebbe mai entrata in Parlamento se non avesse fatto parte di un partito che puntava alla promozione di quelli che lo meritavano, e per fare questo non si può essere affidati soltanto al potere delle lobby. Bisogna che ci sia un principio, una risorsa pubblica. Partito, sì. E questa risorsa pubblica, c'è un finanziamento. Bisogna evolvere, come dire, stare all'evoluzione con i tempi, magari non può essere un finanziamento diretto, può essere l'attivazione del 5 per 1000, a me per esempio questa è una cosa che piace molto, attivare il 5 per 1000 per il finanziamento di partiti. Ci avevano provato. Attivare un azionariato popolare. Ci avevano provato. Se un partito si rivolge ai cittadini per chiedere il 5 per 1000 per la sua attività, vuol dire che ha un rapporto costante con i cittadini. Onorevole Turco, ci avevano provato. No, ci avevano provato, poi si è visto che nessuno l'avrebbe dato e l'hanno tolto. Però devo fare quest'ultima domanda. Non funzionava tantissimo. L'ultima domanda è questa, gliela chiedo secca, devo concludere. Bersani ce la farà, secondo lei, a formare un governo? No, se sarà lui incaricato. Guardi, Bersani ha fatto una proposta importantissima per il paese, perché dice, e anche questo riguarda proprio la credibilità della politica, dice basta con il parlare di riforme, facciamo le riforme e costruiamo le alleanze in Parlamento sulla base di alcuni punti concreti e lui li ha indicati. Vabbè, però ce la farà secondo me, faccia un pronostico suo, cioè la strada è stretta, insomma, c'è la nebbia. È stretta, c'è un ruolo indiscutibile del capo dello Stato. Ci sono le prerogative che sarà bene a ricordare e sottolineare ogni volta, oltre che la fiducia nella sua personalità. Staremo a vedere. Io sono fiduciosa. È fiduciosa, va bene. Intanto la ringrazio, buona giornata, Livia. Grazie. Turco, ovviamente. Grazie. Buon lavoro, ci fermiamo 5 minuti e poi parliamo di l'economia di Beppe Grillo, nel senso che ci sono alcuni che criticano, dicono ma attuare il programma economico di Beppe Grillo sarebbe un salasso per lo Stato, altri invece dicono no, finalmente sarebbe un nuovo modo di vedere l'economia. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:36 minuti. Allora, l'economia 5 stelle, la Grillonomics, come viene ribattizzata dai giornali, che cos'è? Beh, un insieme di proposte, il programma economico del Movimento 5 Stelle. C'è da dire che non c'è un referente per il programma economico e quindi non è facile trovare qualcuno che ce lo spieghi. Ieri Panorama criticava facendo i conti, anche Sartori in prima pagina del Corriere diceva, per esempio, il reddito di cittadinanza che vorrebbe Beppe Grillo per tutti quelli che sono disoccupati, 800 euro al mese o 1000 euro al mese, vorrebbe dire 36 miliardi di euro l'anno, dove ci sono questi soldi? Oppure il no alle infrastrutture vuol dire perdere tanti soldi, ma d'altra parte Grillo dice sicuramente tagliamo i costi della politica, tagliamo le spese militari, mettiamo a dieta lo Stato. Insomma, è un programma che si regge anche su conti veri e concreti. Ne vogliamo parlare intanto con Carlo Stagnaro, che è direttore ricerca e studio all'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Stagnaro e benvenuto, eccoci qua. Buongiorno. Saluto Maurizio Pallante, anche Maurizio Pallante è presidente del Movimento per la Decrescita Felice. Buongiorno Pallante, benvenuto. Buongiorno a voi. Tra l'altro c'è da dire, Pallante, voi spesso venite associati, anche se so con errori, voi dite noi non siamo, diciamo, del Movimento 5 Stelle. È vero che alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle magari sono iscritti al vostro movimento, ma ci spieghi intanto quali sono i tre punti cardine, perché vengono spesso accostati, venite spesso accostati al programma di Beppe Grillo. Ma mi sembra che l'elemento principale per cui ci accostano al movimento di Beppe Grillo è che nel programma, nelle dichiarazioni di alcuni esponenti di questo movimento si parla di decrescita felice, e questa è la cosa fondamentale. non vedo nel programma concreto presentato nei 20 punti da Beppe Grillo dei riferimenti diretti alla decrescita felice. Che cosa vuol dire? Che cos'è la decrescita felice? Ce la spieghi in un minuto. Noi parliamo il prodotto interno lordo, il PIL, misura le merci che vengono scambiate nel corso di un anno e non i beni che vengono prodotti. Allora, molte di queste merci non hanno nessuna utilità. E sono gli sprechi, quelli che noi chiamiamo merci che non sono beni. Per esempio, nel riscaldamento delle case noi consumiamo in Italia circa 20 litri di gasolio, 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. In Germania non danno l'abitabilità delle case che ne consumino più di 7. Sì. Cioè noi sprechiamo 13 litri su 20 al metro quadrato all'anno. Mm. La decrescita significa sviluppare delle tecnologie più evolute che siano in grado di ridurre gli sprechi e di aumentare l'efficienza con cui si utilizzano le risorse. Se la politica economica fosse impostata nella ristrutturazione energetica dei nostri edifici, noi ridurremmo le importazioni, risparmieremmo dei soldi e potremmo pagare i salari degli studenti delle persone che lavorano per ristrutturare energeticamente. Quindi, per esempio, nel primo punto, investire in una tecnologia, diciamo, che ci permetta di risparmiare nel lungo periodo, magari, quello di sprechi. Quindi, per esempio, noi abbiamo presentato gratuitamente al Comune di Parma un progetto di ristrutturazione energetica di una scuola che con l'investimento di 900.000 euro avrebbe una grande scuola e avrebbe consentito un risparmio dell'80% dell'energia consumata. Mm. Il Comune di Parma ha presentato questo progetto alla Regione Emilia-Romagna e il progetto non è stato sostenuto perché mancavano i soldi per finanziarlo. Quando poi leggo che per comprare un casco di un pilota di un F-35 occorrono 2 milioni di dollari, mi rendo conto che questi soldi, se fossero spesi anziché nei caschi, non nell'aereo. Ma 2 milioni un casco? Sì. 2 milioni un casco? Sì. E non può funzionare l'aereo se non c'è questo casco. Io, se vuole, posso anche dire. Sarà un casco super tecnologico, ma ecco, io confesso l'ignoranza. 2 milioni di dollari per un casco di un pilota mi sembra una cosa un pochino esagerata. Vabbè, lei dica quello che vuole. No, nel senso, mi colpisce, ecco, il dato, mi scusi. Ha colpito anche a me quando lo 2 milioni di dollari per un casco. Le dico un altro esempio: per fare il TAV in Val di Susa si spendono 8 miliardi e 200 milioni, con una creazione di 6.000 posti di lavoro, sono dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sì. Vuol dire che per ogni milione investito si creano 0,73 posti di lavoro. Se venissero investiti questi soldi, secondo dati del Sole 24 Ore, quindi di un giornale che lei conosce molto bene, sì, a febbraio dell'anno scorso, se venisse investito 1 milione di euro nelle fonti rinnovabili, che non è la nostra scelta, si creerebbero da 3 a 4 posti di lavoro. Se venissero investiti nell'efficienza energetica, cioè nella riduzione degli sprechi, si creerebbero 13 posti di lavoro. Interessante già questi dati, però lei vede che dice: voi venite spesso citati, accomunati con errore, però alcuni punti, per esempio il taglio alle spese militari, mi sembra di capire, il taglio alle infrastrutture, il no alla TAV è anche un no molto forte da parte di Beppe Grillo. Questo è già un punto, per esempio, di contatto, se vuole. Stagnaro, qui la questione è questa: viene accusato Beppe Grillo di essere, per esempio, ecco, contro le infrastrutture, contro il taglio delle spese militari, cioè trovare è vero dei soldi mettendo a dieta lo Stato, ma non troppi soldi necessari per attuare il programma economico dei suoi 20 punti, è così? Ma sì, devo dire, parto dall'ultimo punto. Ora, al di là del caso del casco degli F-35, per l'amor di Dio, se vuole suggerisco al mio concessionario, dove già con 100 euro si trova della roba buona. Sarà un po' più tecnologico quello del pilota degli F-35. Io non sono un esperto di F-35, ma ho la sensazione che i risparmi che si potrebbero ottenere tagliando quella o altre voci, per esempio del bilancio della difesa, magari anche giuste, però siano stati rivenduti un po' troppe volte. Cioè, è difficile finanziare tutte le cose, tutte le spese, se parliamo del programma di Beppe Grillo in particolare, che vengono immaginate in quel programma, o se guardiamo anche semplicemente agli esempi che sono stati fatti poco fa da Pallante, è difficile finanziare tutte queste cose solo con tagli ai bilanci, alle poste di bilancio, tra virgolette. Ma però lui diceva, per esempio, sul investire nelle tecnologie energetiche che ci permettano di risparmiare e quindi di dipendere meno dalle importazioni. Sappiamo che, ad esempio, le spese energetiche per le aziende sono tra le più alte in Europa, quelle per le aziende italiane. È una politica lungimirante o una politica che ci porta a poco? Ma io fatico a pensare che sia una politica, quella è una scelta delle imprese e degli imprenditori. Ciascuno di noi ha in testa onesta quanto spende per i consumi energetici in casa sua o se è un imprenditore nella sua azienda, valuta il costo degli investimenti e vede in quanto tempo l'investimento si ripaga. Nel caso della pubblica amministrazione è molto vero quello che veniva detto, in tantissimi casi investimenti relativamente modesti potrebbero ripagarsi velocemente perché gli edifici pubblici sono estremamente inefficienti. Perché non siamo in grado di farlo però? Perché non viene fatto? Perché nel bilancio pubblico italiano, anche a livello locale, vi sono spese correnti così elevate che non lasciano spazio per fare quel tipo di investimenti in conto capitale come quelli che sono stati citati. Allora, il presupposto per fare questi investimenti, che in alcuni casi sono sensati, non c'è particolare ragione di essere scettici, immagino l'esempio della scuola di Parma ricada in questa categoria. Per fare questo tipo di investimenti bisogna restituire disciplina finanziaria ai conti pubblici italiani, bisogna fare in modo che il bilancio pubblico sia quantomeno in pareggio e che presupponga un livello di spesa sufficientemente basso per poter investire in una investire in una tecnologia vuol dire investire, vuol dire avere dei soldi. Questa è un po' la critica anche Pallante. Lei stesso dice che è stata rifiutata questa proposta per il Comune di Parma perché non c'era il finanziamento, cioè un investimento comporta per forza un finanziamento, no? Certo, se si preferisce spendere in opere inutili i soldi non ci sono. Però perché lei dice, non so, la TAV lei dice è inutile, no? Facciamo l'esempio della TAV, adesso non dobbiamo approfondire. Sì. La TAV è inutile, però, cioè è inutile dal punto di vista economico, ci ha spiegato come potrebbero essere investiti i soldi. Però se fosse un'opera, assumiamo il fatto che è un'opera strategica che porta anche benefici per l'economia futura, non la possiamo vedere così? C'è un investimento che porta dei benefici anche se è un investimento oneroso? Ma chi non è mai negato? Io sto parlando di cose molto concrete, sto parlando del TAV, sto parlando degli F-35, sto parlando di cose precise. In questo momento io sono in treno, sto andando a Rimini, dove parteciperò a un convegno organizzato dall'API, Associazione Piccole e Medie Industrie, e dal Movimento della Decrescita Felice su questo argomento qua. Perché quando la differenza di fondo è questa, che le grandi opere le fanno le grandi aziende multinazionali, la ristrutturazione energetica degli edifici la fanno una miriade di piccole aziende distribuite sul territorio, di professionisti e di artigiani. E questa è la scelta strategica che noi dobbiamo compiere, valorizzare il nostro sistema economico e produttivo, è composto al 99% da piccole industrie. Noi dobbiamo valorizzare le piccole industrie. E è un lavoro che resta in Italia. Ristrutturare le case viene fatto da queste aziende, fare i caschi dei piloti dell'F-35, le fanno aziende multinazionali e gli utili non vengono reinvestiti nel nostro paese. Lei dice che bisognerebbe avere questa politica, quella che hanno molti piccoli artigiani, molti piccoli imprenditori a livello nazionale, cioè la logica dovrebbe essere trasporta in politiche energetiche a livello nazionale. Tanto le dico anche che è arrivato un sms di un ascoltatore che si qualifica come pilota ingegnere aeronautico e dice che 2 milioni per un casco, 2 milioni di dollari è una cifra che gli appare totalmente spropositata. Ma gliela dico così, non è, cioè io non lo so, la mia confessa è una totale ignoranza. Siamo con Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leone e Maurizio Pallante, presidente del Movimento per la Decrescita Felice. Devo dire che invece arrivano messaggi come Paola da Firenze che ci dice: no, è vero, costano 2 milioni di dollari questi caschi, come ha scritto, come ha fatto nel servizio Iacona su Rai 3. Non l'ho visto, non lo so, mi ha semplicemente stupito e non faccio ironie perché non si può più ridere, Stagnaro, qui non si può più sorridere neanche. Pare che il momento dell'Italia sia talmente tragico che se uno sorride, si sveglia col sorriso, è un coglione. Ecco, bisogna dirlo, e invece io rivendico il diritto anche di sorridere ogni tanto, no? Comunque, no, le spiego perché la decrescita che stiamo attraversando è sempre infelice. La decrescita è infelice, ho sorriso anche adesso, vabbè. Stagnaro, c'è un punto, per esempio, il reddito di cittadinanza, questo è interessante. Beppe Grillo rivendica, bisogna dare a tutti i disoccupati 800 euro o 1000 euro, insomma una cifra che si aggiri a quella cifra lì per 3 anni. Ieri Sartori scriveva, vorrebbe dire se si assumono i 3 milioni di disoccupati 36 miliardi di euro l'anno, dove si trovano questi soldi? Bastano fare i tagli, basta mettere a dieta lo Stato? Ma tecnicamente sì, cioè se uno vuol spendere 30 miliardi in più deve da qualche parte trovare 30 miliardi in meno da spendere, oppure far pagare alla restante parte dei contribuenti 30 miliardi in più di tasse. Escluderei per ovvie ragioni quest'ultima ipotesi. Fare tagli per 30 miliardi nel resto del bilancio pubblico è possibile, ma ci vuole un certo impegno, e non basta ancora una volta tirare a mezzo gli F-35. L'intero bilancio della difesa vale circa poco più di un punto di PIL all'anno, vuol dire tra i 15 e i 20 miliardi di euro all'anno. Se noi azzerassimo il bilancio della difesa, vendessimo le caserme, licenziassimo i generali, rinunciassimo a pattugliare le coste, non partecipassimo più ad alcuna missione, eccetera, risparmieremmo quest'ordine di grandezza. Comunque non basterebbe a finanziare questo tipo di intervento. Dopodiché c'è un secondo punto che per me è ancora più importante. Supponiamo di trovare il modo di dare 800.000 euro al mese a ciascun disoccupato. Sì. Per fare cosa? È essenziale che un intervento del genere sia accoppiato anche a un ulteriore investimento in formazione, in attività di job placement e così via, perché altrimenti si crea un incentivo perverso alla gente a essere disoccupata. Ma credo che sia... pagano per essere disoccupato, no, perché devo lavorare. Certo, ma credo che sia strutturata così: ti do 800 euro intanto per 3 anni, però ti offro anche dei posti di lavoro. La terza offerta di posti di lavoro che tu rifiuti, allora perdi questo sussidio, diciamo, di... Però non è una cosa facilissima da costruire, va strutturata bene, implica dei costi e, ripeto, a maggior ragione richiede, altrimenti non è credibile, lo sforzo di dire: ok, questi 36 miliardi di euro dove vado a prenderli, ma questo è in dubbio, e questo è un po' il punto che viene criticato, non tanto a Beppe Grillo, ma più che altro il fatto che non esistono dei consulenti economici identificabili, perché Stiglitz ha detto non è vero, Fitoussi dice non sono io, lei Pallante si identifica, no, mi sembra di capire, dice noi veniamo citati qualche volta, ma non siamo in contatto con Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, me lo conferma. Noi abbiamo presentato una serie di proposte di politica economica per superare la crisi, la recessione. E vorrei precisare agli economisti che il concetto di recessione è ben diverso dal concetto di decrescita. La recessione è la diminuzione indiscriminata e incontrollata di tutta la produzione e crea disoccupazione. La decrescita è la riduzione selettiva e guidata delle merci, della produzione di merci che non sono beni e crea occupazione. Perché lei dice crea occupazione? Questo è il punto, perché si investe in altra cosa. Per le case, per fare in modo che consumino di meno, sì, la gente deve lavorare. Certo, questo sì, però se tu cur si tolgono per sua stessa missione cose, beni che invece sono considerati, come dire, non produttivi, inutili, anche qui merci automaticamente si manda a casa delle persone, cioè tutte vengono riqualificate automaticamente a fare qualcos'altro, non è facile. Pensi che uno per 30 anni ha fatto una cosa che lei considera di colpo, una cosa che non serve più, che fa quell'operaio lì? Si riqualifica. Come è sempre successo nella storia dell'umanità, perché se non ci fosse stato questo non ci sarebbe stata nessuna evoluzione, neanche dal punto di vista tecnologico, va bene? Non capisco perché voi dobbiate criticare una cosa che è stata nella storia del capitalismo mondiale. Ma mi scusi, non stiamo discutendo, sa, Pallante. Continuiamo ancora a produrre le cose che si producevano 50 anni fa, 60 anni fa. Guardi che comunque non è una critica, è un dibattito, sa, nel dibattito si fanno delle critiche. Mi lasci dare due ascoltatori, uno ci chiama, addirittura ci dicono ci ascolta evidentemente in streaming da Hong Kong, è vero? Oscar, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i suoi ospiti. Buonasera per lei, perché che ore sono a Hong Kong? No, sono 7 ore in più. Certo, quindi sono le tre, non so neanche fare i calcoli, ma in matematica ero così. Oscar, dica. Senta, io allora innanzitutto io sono un espatriato, nel senso che vi seguo sempre in streaming, in podcast e chi più ne metta. E me ne sono andato per la disperazione, diciamo, 13-14 anni fa, sì. Chiusa la parentesi, ho un'azienda, anzi più di un'azienda, da Hong Kong in Cina, e mi trovo benissimo qui e l'avrei fatto prima. Io sto sentendo quello che veramente mi spiace dell'Italia, sto sentendo innanzitutto un sacco di sciocchezze e soprattutto mi sembra quasi che non si voglia portare l'Italia fuori dalle secche, vale a dire. Allora, per quanto riguarda il discorso degli F-35, ho sentito un sacco di stupidati. Io sono un ex militare della Marina, comunque sommergibile, sì, e quant'altro. E il 2 milioni di dollari del casco sono palle, il casco costa 75.000, è un terminale né più né meno come può. Guardi che però Oscar, rimanga qui perché Diego da Bergamo, rimanga con noi Oscar, Diego da Bergamo, buongiorno, mi hanno detto che lei ha chiamato, collabora con aziende di armamenti ed è vero che la cifra è quella del casco. Sì, io tra l'altro chiamai anche sempre qualche mese fa la sua trasmissione, sì, erano presenti due generali, si parlava ancora degli F-35, io in generale sono contro la demonizzazione delle spese. Vabbè, per quanto costa un casco per gli F-35? Allora, chiaramente come per tutti i vengono chiamati approvvigionamenti a latere di pertinenza della difesa ci sono vari modelli. Sì. Alcuni modelli che io arrivano senza entrare nello specifico, sono stati acquistati dalla aeronautica italiana, arrivano a costare anche 3 milioni di dollari, perché sono modelli che rivalgono tutti, valgono tutti fino all'ultimo dollaro. Sì, immagino che sarà una tecnologia spaventosa. Ma se voi pensate le altitudini e gli sforzi anche cui sono sottoposti i piloti dell'aeronautica, e fate due conti, osservate la tecnologia che dietro a un servizio come quello che un pilota dell'aeronautico rende. Ma se arriva a 3 milioni. Però Diego, si dice un'ultima cosa, io sforo. Anche Oscar da Hong Kong, per favore, ha un concetto da 10 secondi da esprimere, perché devo chiudere tra 20 secondi. Molto semplicemente, allora il discorso, ripeto, il casco è solo il terminale, è il software che è dietro, che costa caro, e tutto quello che c'è di armamento a bordo dell'aereo. Detto questo, quando siete a parlare TAV, no, questa, allora io vorrei semplicemente ricordare a tutti questi vostri signori che gli americani a suo tempo, dalla Grande Depressione, partirono col New Deal, quindi le grandi opere. Le se grandi non si parte opere. Con questo, investire. Se non si parte con questo, l'Italia non uscirà va mai bene, dalle pecche. Va bene, grazie Oscar. Mi fermo qui, ma il tema è caldo e ci torneremo. Ringrazio Maurizio Pallante, Carlo Stagnaro, l'appuntamento è rinnovato per tutti a lunedì alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.